bel cielo è d'accordo con me. Prendi le stelle e guarda la notte, tra il bianco e la luna che in te si riflette. Fragile io, labbra di plastica e fumo che poi prende le stelle, la luna e la pelle, le mani, i capelli che tu mi fai bere. Che tu